Il cavallo e l'asino, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Il suo fardel di guai lascia chi muore a quel che resta. Ebbene, aiutarci l'un l'altro ci conviene. Un asino fea scorta ad un cavallo, che era alquanto egoista di natura, e mentre l'un crepava sotto il peso del suo grosso fardello, non avea l'altro che la bardatura. «Aiutami, fratello», disse l'asino, «ho qui il casco disteso prima ancora di giungere alla meta. La preghiera non è troppo indiscreta, perché metà per uno non fa male a nessuno». Il cavallo, del cul fatta trombetta, che non vuole rispondere, si affretta. E l'asino morì, povera bestia. Il superbo comprese il suo gran torto quand'ebbe la molestia di portargli solo, insieme al carico, la pelle anche del morto. Fine della favola «Il cavallo e l'asino». Questa registrazione è di dominio pubblico.